quello che è fondamentale è avere la consapevolezza che si sta costruendo quella che noi chiamiamo una nuova rete idrica, perché veramente stiamo parlando di strumenti sempre più essenziali. La pandemia l'ha fatto vedere anche in modo molto chiaro, e quindi Bologna, che è sempre stata all'avanguardia, ed è all'avanguardia, Forum Piazza ha premiato anche recentemente fra le 3 città più digitalizzate d'Italia, sta ampliando i suoi servizi, che si parla di un cittadino al centro, servizi digitali per riuscire a gestire tutti quelli che sono i servizi amministrativi, quindi comodamente da casa, ma una serie di novità a partire dal gemello digitale, che è una costruzione fatta di una marea di dati che il comune di Bologna ha e che stiamo mettendo insieme proprio per gestire quella che è l'amministrazione, potendo fare previsioni e ragionamenti con una mole di dati importanti. Lo Smart Citizen Wallet, di cui abbiamo parlato diverse volte, ovvero il portafoglio del cittadino virtuoso, con cui daremo punteggi ai cittadini che fanno attività virtuose per l'ambiente, per la cultura e socialmente. Quindi davvero un piano di cui siamo molto orgogliosi e che è molto importante per la città. Gran parte delle cose sono già ampiamente avviate e altre, come il tavolo per il Digital Divide, sarà aperto il 6 aprile. Il corso concorso ITS per esperti in cyber security è un processo che stiamo portando avanti come comune pilota insieme alla città metropolitana, e a settembre, se tutto continua ad andare così liscio come è andato in questi mesi, dovrebbe vedere la luce. Quindi i comuni dell'area metropolitana di Bologna avranno esperti in cyber security. Lo stesso Smart Citizen Wallet, siamo in uno stato molto avanzato, quindi entro l'anno dovremmo avere anche di questo il progetto pilota utilizzabile dai cittadini. L'investimento quanto pesa? Ma gli investimenti, guardate, stiamo parlando di un settore che sicuramente ha bisogno di investimenti, ma non sono le cifre stratosferiche che uno può immaginare davanti a scelte così innovative. Uno, perché il comune di Bologna è avantissimo dal punto di vista di dati raccolti proprio, e due, perché fondamentalmente oltre ad avere importanti fondi regionali, PNRR e nazionali, sono anche investimenti che non richiedono più che una visione, ecco. Quindi parliamo di qualche milione di euro, ma non di investimenti da centinaia di milioni. Che cosa cambierà al cittadino con questo Smart Citizen Wallet? Il cittadino intanto avrà un riconoscimento, per cui il cittadino virtuoso che si comporta bene, ovvero differenzia bene, gestisce bene la sua energia in casa, usa i mezzi pubblici per spostarsi e quindi è a favore di una mobilità sostenibile, non prende sanzioni, quindi non ha sanzioni da parte della municipale, e ha un'attività culturale per cui con la card di Bologna Welcome è attivo. Intanto Bologna e l'amministrazione gli dice: noi ti vediamo e te lo riconosciamo con un punteggio. In più questo entrerà in una premialità circolare, per cui avrà anche dei vantaggi economici effettivi. E non è un po' un, diciamo così, qualcosa che mette a repentaglio la privacy del cittadino, stargli così addosso con i punteggi e tutto? Questo ovviamente è la domanda legittima che si deve fare, che è giusto fare. Ovviamente il cittadino deve dare la sua disponibilità e quindi non viene costretto a partecipare a questo strumento che gli dà dei vantaggi, ecco, ma io credo che saranno in tanti. Come funziona il poter dare appunto il consenso a questo? Niente, quando partirà questo portafoglio sarà chiesto al cittadino di inserirsi e scaricherà questo applicativo e in quel momento darà consenso, come funzionano tutti gli altri applicativi. Piccole sperimentazioni sono state fatte in Europa dando proprio premialità in denaro con, chiamiamo Bitcoin, la moneta. In realtà noi stiamo lavorando su scontistiche che andranno da Tiper a Era, ma Bologna Welcome, Car Cultura, ai servizi comunali, con delle scontistiche in base ai punteggi ottenuti. Ogni asset che partecipa a questo portafoglio darà un valore ai punteggi, di modo che, la dico brutalmente, come quando al supermercato con tot punteggi puoi avere o 20 bicchieri o 2 pentole, ecco, questo proprio per spiegarlo. E quindi ci saranno scontistiche su tutti i partecipanti, che contiamo poi di allargare, perché questa è una fase nel progetto pilota di inizio che considera questi asset che vi ho detto strategici, fondamentali, ma poi tanti altri ci stanno già contattando aspettando per inserirsi e vedremo se la cosa funzionerà e piacerà ai bolognesi di inserirlo più avanti. Ecco, state pensando anche come sensibilizzare chi invece non è molto digitale? Assolutamente sì, abbiamo fatto un paio di commissioni su questo tema, di commissioni consigliari, e in quella sede abbiamo deciso di aprire un tavolo con tutte le associazioni che fanno non come asset fondamentale della loro attività, però stanno da anni lavorando e mettendo energie e risorse per colmare il divario digitale delle persone meno avvezze all'utilizzo di questo mezzo, e apriamo un tavolo che sarà permanente il 6 di aprile, se non sbaglio. Iniziamo a collaborare con tutti quelli che su questo tema vogliono dare una mano. Bologna già fa tanto, anche la regione, però è tema cruciale perché gli over 65, soprattutto c'è una parte femminile, questo è quello che ci dicono i vari sondaggi, che sono esclusi. Tornando un attimo al wallet, alcuni dei comportamenti virtuosi, penso ad esempio all'uso del trasporto pubblico, sono talvolta di più difficile accesso per chi vive lontano dal centro, per chi lavora lontano dal centro. Non c'è il rischio di premiare chi già è in una condizione di vantaggio? No, il tema sarà proprio premiare tutti quelli che hanno virtuosità e che hanno in mente il rispetto. Quindi sia chi è vicino, chi è lontano, ci saranno punteggi diversificati in base alle varie funzioni.